Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Uno smottamento e cade un traliccio su una conduttura del gas. Ancora aperto lo scontro nella Lega, Tosi a Radio 24. Il Consiglio federale torni indietro, mi dimetto e mi candido. Maroni replica, il Consiglio ha già deliberato ed è sovrano. All'indomani degli annunci di Draghi sugli acquisti di titoli, l'euro si indebolisce ancora sotto quota 1,10. La Grecia invia la lettera con le riforme all'Eurogruppo. Ultimo giorno ai servizi sociali per Silvio Berlusconi, è stata un'esperienza toccante, dice l'ex cavaliere, la continuerò. È un crimine di guerra, così l'UNESCO dopo che con un bulldozer gli uomini dell'ISIS hanno devastato le rovine irachene di Nimrud. Adescavano gli adulti sulle chat e sui social, poi li minacciavano di denunciarli, 10 minorenni sotto inchiesta per estorsione. La Lega Calcio è riunita per decidere sul piano per affrontare il caso del Parma, ma nella sede arriva la Guardia di Finanza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti sono effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e durante la diretta il numero di SMS è il 349-238-6666. Tra un attimo andremo a Milano per la notizia che avete sentito nei titoli, appena battuta dalle agenzie, ossia la Guardia di Finanza nella sede della Lega di Serie A per il caso del Parma, ma prima facciamo un punto sul maltempo e sui danni che il maltempo sta generando a partire dall'Abruzzo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Vento e pioggia stanno colpendo in queste ore soprattutto il centro e il sud e in questo momento la situazione più critica è in Abruzzo, nel comune di Pineto, provincia di Teramo, dove tre esplosioni e una condotta del gas hanno provocato un vasto rogo. Le fiamme altissime, visibili anche a chilometri di distanza, sono state domate dopo mezz'ora. All'origine uno smottamento dovuto al maltempo che avrebbe provocato la caduta di un traliccio della corrente sulla condotta, tre i feriti. E sempre in Abruzzo le autostrade A24 a 25 sono state chiuse dalle 4 di questa mattina per bufere di neve, riaperta da poco la A24, problemi anche nei collegamenti ferroviari nella tratta Firenze-Roma che ha subito rallentamenti a causa di un albero che ha tranciato un cavo dell'alta velocità, disagi in Molise paralizzato dalla neve che continua a cadere senza sosta, stamattina scuole chiuse in una settantina di comuni e poi ci sono state anche delle vittime nelle Marche. Ieri a Urbino una vittima, una donna di 49 anni schiacciata da una pianta che si è abbattuta su di lei, e nelle Marche ci sono ancora disagi soprattutto a causa del vento forte. Ieri in Toscana, nel Lucchese, è morto un uomo di 41 anni alla guida della sua auto travolta da un masso staccatosi da una parete. Sono attualmente 35.000 le utenze in Toscana ancora senza luce. Nel Milanese un anziano per una forte raffica di vento ha perso il controllo della sua bici ed è finito sul cofano di un furgone che lo ha investito. Tragedia invece sfiorata in Val Gardena, dove un albero divelto dal vento si è abbattuto contro le funi della cabinovia bloccando l'impianto per alcune ore, per circa un'ora. Nel Lazio infine ancora forti disagi, alberi, rami e cartelloni sono caduti a causa del forte vento che sta interessando soprattutto il litorale a nord di Roma. E con questo è tutto. E di tutto questo torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione. Ci collegheremo proprio col sindaco di Pineto, il luogo dove c'è stata questa esplosione, parleremo con l'assessore la protezione civile dell'Abruzzo e poi ci occuperemo di Pistoia, dove c'è un grande distretto del florovivaismo che è stato duramente colpito dal vento di queste ore. Intanto ci spostiamo a Milano, dove questa mattina è iniziata la riunione della Lega Calcio per decidere le sorti del Parma e Giovanni Capuano, a un certo punto mentre eravate là fuori a seguire questo appuntamento, è arrivata la Guardia di Finanza, no? Sì, è arrivata la Guardia di Finanza nella tarda mattinata e di una mattinata che ha vissuto fin qui parecchi colpi di scena e ne promette anche altri, così come il resto della giornata. Guardia di Finanza che si è materializzata qui negli uffici della sede della Lega di Calcio, della Lega di Serie A, ma anche da quanto risulta a Roma negli uffici della Federcalcio e poi questa era notizia di metà mattinata a Parma, nella sede del Parma Collecchio, dove da quanto risulta è stata presa visione dei libri contabili contabili e i finanzieri evidentemente hanno fatto una raccolta di documenti, perché pare che tutta questa attività sia attività che dovrà portare poi all'udienza prefallimentare del 19 marzo, che è in questo momento la data più importante segnata sul calendario del Parma, oppure, questa è l'altra interpretazione, ci potrebbe anche essere un'accelerazione nell'inchiesta che la Procura di Parma ha aperto. Ieri l'ex presidente Ghirardi, che secondo alcuni era iscritto nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta, ha smentito di aver ricevuto alcun avviso di garanzia. Poi ieri c'è stato anche un incontro tra i magistrati di Parma e quelli dell'antimafia, perché c'è il sospetto che intorno al club negli ultimi mesi si sia avvicinata anche la grande criminalità organizzata e in particolare alcune famiglie dell'andrangheta. Insomma, c'è una situazione giudiziaria che è in evoluzione proprio in questi minuti, mentre si sta dibattendo anche qui in Lega di quello che potrà essere il futuro immediato, il futuro poi più a lungo termine sportivo del Parma, anche se pure in questo caso ci sono dei colpi di scena, perché Simone, ad esempio, mentre qui si ragiona sul piano di Tavecchio, che significa 100.000 euro subito da uno sponsor per giocare le prossime due partite e poi 5-6 milioni che i club devono tirar fuori per garantire al Parma di finire la stagione, beh, mentre si sta discutendo di tutto questo, a Parma l'attuale presidente proprietario del Parma Manenti, che qui in Lega non si è visto perché era con Lecchio anche per mostrare i libri contabili alla Guardia di Finanza, ha ottenuto il via libera per giocare Parma-Atalanta dal GOS, che è un gruppo operativo speciale che fa da gestore della sicurezza in uno stadio e che evidentemente da organo istituzionale ha ritenuto credibili le garanzie che Manenti dà perché domenica si possa giocare. Ora evidentemente ti rendi conto, si tratta di un cortocircuito, però vediamo. Se vuoi ti dico che cosa ci attende oggi. I presidenti oggi dovrebbero dare il via libera a questo fondo, poi Tavecchio, il presidente della Federcalcio, dovrebbe andare a Parma a convincere i giocatori. Però tutto questo è col condizionale, perché stiamo vivendo minuto per minuto. Grazie Giovanni, io immagino che poi ti risentiremo ovviamente in tutti i convocati per fare un punto su tutto questo e su questa specie di giallo che riguarda il Parma in queste ore. Passiamo all'economia, arrivano i primi dettagli sul 730 precompilato, arriverà il 15 di aprile. Il modello 730 sarà disponibile dal 15 aprile e riguarderà una platea di 20 milioni di persone. Pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati potranno disporre allora già da quest'anno di una dichiarazione dei redditi precompilata dal fisco in tutto o in buona parte. Per elaborarlo, l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, quelle trasmesse dalle banche, dalle assicurazioni e dai sostituti d'imposta. Sono state così trasmesse più di 100 milioni di operazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui e contributi previdenziali, oltre a quasi 19 milioni di certificazioni uniche. Dal 2016 saranno presenti nella dichiarazione precompilata anche le spese sanitarie, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazione d'imposta, e altre spese comuni, come ad esempio le tasse per l'iscrizione all'università. Il contribuente, spiega l'Agenzia delle Entrate, può comunque modificare, integrare o accettare il modello e trasmetterlo quindi al fisco dal 1 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un CAF o un professionista. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il giorno dopo gli annunci sul quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, gli effetti sui mercati continuano a farsi sentire, in specie sul cambio tra euro e dollaro. Deborah Rosciani. Siamo a 1,0944 in questo momento nel cross fra la moneta unica europea e il biglietto verde, circostanza che sta peraltro continuando a spingere anche il mercato azionario. E Milano, la protagonista d'Europa, guadagna lo 0,46%. Sul FTSE MIB abbiamo un rialzo più moderato, ma comunque terreno positivo anche per Parigi e Francoforte. Non risponde Londra, che c'è da adesso leggermente terreno, meno 0,14%. L'attesa a questo punto, dopo le decisioni e le comunicazioni di Cipro, si spostano negli Stati Uniti, dove alle 14.30 sarà diffuso il dato sulla disoccupazione americana di febbraio, un dato chiave anche per dare la linea alla Federal Reserve sulla propria condotta di politica monetaria. Piazza Affari, UX miglior titolo più 4,46%. 4%, riprende a correre Monte dei Paschi, più 4,42%, bene anche oggi Moncler, Autogrill, Asimut, guadagnano tutte circa un punto e mezzo, tornano a crescere anche le popolari che questa mattina in avvio di seduta erano contrastate all'indomani dell'accordo raggiunto fra governo e gruppi parlamentari sulla riforma degli istituti. In base ad un emendamento al decreto, le grandi banche popolari per 2 anni potranno adottare un tetto al 5% dei diritti di voto dopo la trasformazione in SPA. Direi che, Simone, per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. L'apertura della pagina politica è dedicata alla Lega, perché ospite di 24 Mattino il sindaco di Verona Flavio Tosi non ha escluso di candidarsi alla presidenza della regione. Sentiamolo al microfono di Alessandro Milan. Io sono stato al di là, come sapete bene, gli accordi fatti, mai mantenuti, torti subiti, però sono stato sempre fin troppo leale, corretto, e quindi sono stato il primo a dire la candidatura del governatore Zaia è quella e la si porta avanti, e così la Lega Veneta l'ha portata avanti, così sottoscritto lunedì a Milano ha votato la candidatura di Luca Zaia, salvo poi essere commissariato. Sì. Però se lei uscisse, a quel punto non è più della Lega, quindi può fare quello che vuole. È chiaro che se ci fosse una frattura, poi uno decide liberamente per sé, per quello che ritiene, ovvio, ma del resto se così fosse non l'avremmo certo provocata noi questa situazione, visto che noi abbiamo mantenuto lealmente la candidatura di Luca Zaia, abbiamo solo chiesto quello che è un diritto sacrosanto scritto sull'articolo 39 dello statuto della Lega, ovvero sia che sia la Lega Veneta a fare le liste per la Lega in Veneto e non Milano. Quindi lei dice, se loro mi cacciano, la traduco io, a questo punto io sono libero anche di candidarmi. Se loro portano avanti questa frattura, a quel punto ognuno è libero di fare quello che meglio crede, quindi Flavio Tosi può restare sindaco di Verona, può ritirarsi a vita privata, può candidarsi, andare in seminario, o può anche candidarsi governatore. Auguri, vedremo i veneti chi sceglieranno, non ho dubbi in proposito, dice il leader della Lega Matteo Salvini, mentre il presidente lombardo Maroni dice c'è stato un consiglio federale che ha deliberato e il federale è sovrano nelle questioni interne alla Lega. Le altre questioni politiche riguardano i rapporti tra il presidente del Consiglio e la presidente della Camera, Laura Boldrini. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Lo scontro tra Laura Boldrini e Matteo Renzi si aggiorna di un nuovo capitolo. La presidente della Camera risponde in un'intervista alla stampa al Presidente del Consiglio, che l'aveva accusata di essere uscita dal suo perimetro istituzionale su un possibile decreto sulla RAI che Renzi voleva fare. La Boldrini risponde: oggi difendere l'Aula è mio dovere, è il contrario di quello che dice il Presidente del Consiglio, il Parlamento è il cuore della democrazia, ritenere opportuno che vengano tenuti in considerazione i pareri delle commissioni così che si limiti all'essenziale la decretazione d'urgenza non significa affatto uscire dal mio perimetro istituzionale. E Boldrini continua: anche le opposizioni devono poter portare in aula i loro provvedimenti. Nega poi la Presidente della Camera di essere interessata ad un ruolo politico tipo una Tsipras italiana. La mia realtà alla Camera è già molto piena, non facciamo voli pindarici. Il Premier intanto rinuncia al decreto sulla RAI ma accelera la riforma, pensa ad una nuova legge sulla governance, una RAI libera dai partiti, per questo è aperto il dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma ancora non è chiaro se sarà una SPA o una fondazione. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Ultimo giorno dei servizi sociali per Silvio Berlusconi, Raffaella Calandra. Sì Simone, se n'è andato con la promessa in realtà di tornare. Intendo continuare questa esperienza, annuncia Silvio Berlusconi una volta lasciata Cesano Boscone. Ma se l'ex premier tornerà davvero in questo centro di assistenza per anziani, a questo punto lo farà da volontario, perché quella di oggi, come dicevi, per lui è stata l'ultima mattina nei reparti della Sacra Famiglia per scontare la pena ai servizi sociali dopo la condanna Mediaset per frode fiscale. È stata un'esperienza toccante, una pausa di serenità, fa sapere Berlusconi, che ogni venerdì da maggio ha superato i cancelli di questa struttura per accompagnare, imboccare, intrattenere persone fragili per le quali ha anche suonato il pianoforte con Confalonieri. Dal tribunale di sorveglianza ha ottenuto infatti uno sconto di 45 giorni, ma la fine anticipata della pena deve essere comunque convalidata in un'udienza dopo che i vertici della struttura avranno mandato una relazione all'ufficio esecuzione penale. In genere passano dei mesi, ma ancora una volta bisogna dire che nel futuro giudiziario dell'ex premier la cronologia sarà fondamentale perché si incrociano fronti diversi. Un'incognita sono i possibili sviluppi infatti dell'inchiesta Ruby Ter, che sta procedendo a passi veloci verso la chiusura con l'accusa pesante di aver pagato testimoni. Potrebbero influire i nuovi atti sulla valutazione dei giudici? In teoria sì, ma potrebbero passare dei mesi prima di quell'udienza. Molto prima invece a preoccupare Berlusconi, ancor più che la pubblicazione ieri delle intercettazioni al processo Tarantini, è l'arrivo in Cassazione del processo Ruby. Martedì 10 la prima udienza. Dopo una condanna e un'assoluzione, il timore dell'ex cavaliere è un nuovo processo d'appello, con la consapevolezza che un'eventuale condanna cancellerebbe pure lo sconto dei 3 anni per l'indulto di cui ha goduto per Mediaset. Ma questi sono solo possibili scenari e la cronaca di oggi è solo l'ultimo giorno tra i malati di Alzheimer per Berlusconi. Grazie Raffaella Calandra. All'estero ora, in Israele, dove un'auto si è lanciata contro la folla, ferite 4 poliziotte. 5 donne poliziotto sono rimaste ferite nell'attentato di questa mattina a Gerusalemme Est, nel quartiere arabo di Sheikh Jarrah. Un palestinese le ha volontariamente investite a una stazione della polizia di frontiera. Fermata l'auto, l'uomo è sceso dalla vettura armato di un coltello, ma è stato fermato dai colpi di arma da fuoco sparati da un altro poliziotto presente. L'uomo è stato ricoverato e le sue condizioni al momento sono ignote. La tensione in città oggi era acuita dalla concomitanza del venerdì di preghiera islamico e i festeggiamenti per il Purim, il carnevale ebraico, che, ha detto il sindaco di Gerusalemme, Nir Barkat, non saranno comunque modificati. Non dobbiamo consentire al terrorismo, ha aggiunto, di stravolgere le nostre vite. Continueremo a combatterlo senza compromessi. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'UNESCO definisce un crimine di guerra il fatto che ISIS abbia raso al suolo con un bulldozer i resti della città di Nimrud, che fu anche capitale dell'impero assirio e viene nominata nella Bibbia col nome di Calà. Non è il primo caso nel quale gli estremisti islamici si accaniscono su resti archeologici. Ad annunciare la devastazione è stato lo stesso governo iracheno attraverso il Ministero del Turismo e delle Antichità. Dopo l'assalto al Museo di Mosul, i miliziani del califfato islamico di Abu Bakr al-Baghdadi hanno raso al suolo coi bulldozer anche il sito archeologico assiro di Nimrud, che si trova sul fiume Tigri e risale al XIII secolo avanti Cristo. L'ISIS continua dunque a sfidare l'umanità non solo uccidendo, ma anche arrecando danni irreparabili al patrimonio archeologico che appartiene non soltanto all'Iraq, ma al mondo intero. Luca Colliva, con direttore della missione archeologica nel Kurdistan iracheno dell'Università La Sapienza di Roma. Ogni occasione di conflitto militare porta rischi per il patrimonio culturale. Qui assistiamo però anche a una distruzione ideologica voluta e sistematica di cui non si avevano esempi da molto tempo. La sistematicità con cui stanno agendo nelle zone da loro controllate supera di gran lunga anche quella che avevamo visto in Afghanistan al periodo dei talebani, una sistematicità voluta e mostrata al mondo come propaganda. Un gesto di iconoclastia questo dell'ISIS, di cui però purtroppo è ricca la storia dell'umanità, e non solo in contesti religiosi, ma come ha denunciato la direttrice generale dell'UNESCO Irina Bokova, la deliberata distruzione di un patrimonio culturale è un crimine di guerra e bisogna schierarsi contro questa barbarie. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tra i 500.000 e il milione i migranti pronti a partire dalla Libia, lo dice il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri in un'intervista all'Ansa. Nel 2015 dice: dobbiamo essere preparati ad affrontare una situazione più difficile dello scorso anno. Lo smottamento in Abruzzo ha fatto esplodere una conduttura del gas, fiamme visibili da chilometri, 8 feriti, chiuse 2 autostrade per problemi di neve, come avete sentito, una è stata riaperta, la Toscana conta i danni. Ancora aperto lo scontro nella Lega, Tosi a Radio 24, il Consiglio federale torni indietro o mi dimetto e mi candido alla presidenza. Ultimo giorno ai servizi sociali per Silvio Berlusconi, è stata un'esperienza toccante, dice l'ex cavaliere, la continuerò, la politica impari dall'umanità che ho trovato. Roberto Verrocchio è il sindaco di Pineto, provincia di Teramo, dove questa mattina c'è stata questa forte esplosione in un metanodotto dovuta ad un traliccio che è crollato a causa di uno smottamento. Verrocchio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Qual è la situazione adesso? La situazione adesso, diciamo, l'area è sotto sequestro, c'è stato un pronto intervento da parte di tutte le forze dell'ordine su coordinamento della prefettura, sono ricoverati in ospedale circa 7-8 persone che in questo momento stanno, vengono diciamo controllate, circa 3 o 4 probabilmente avranno un'ustione di primo, secondo e forse qualcuno anche di terzo grado. Io mi trovo in ospedale in questo momento, sono c'è anche un bambino, abbiamo letto, sindaco. Sì, c'è anche un bambino, sì. Le condizioni come sono? Due bambini, le condizioni come sono? Quali sono? Allora, ci sono delle ustioni, mi dicono adesso non ho tutti i dettagli, dovrebbero essere tra il primo e il secondo grado e forse in un caso di terzo grado. Ovviamente siamo fuori pericolo, ma comunque sono ricoverati già quattro in ospedale, rimarranno qui ricoverati. Altri ovviamente hanno subito un momento di panico, per cui sono anch'essi insomma sotto attenzione. L'incendio è stato domato? L'incendio è stato domato, ovviamente in questo momento per via dell'incendio mancano tutti i servizi, quindi energia elettrica, gas, inclusa anche il servizio idrico nella zona. Infatti sono in attesa tutte le aziende dei vari gestori che l'area venga insomma aperta per i lavori, perché ripeto sono in corso insomma indagini da parte del PM in questo momento. Grazie Roberto Verrocchio, sindaco di Pineto, provincia di Teramo, e restiamo su questi temi ma ci spostiamo in un altro luogo d'Italia. Vannino Vannucci è presidente del CESPEVI, che cos'è? È un distretto rurale vivaistico della provincia di Pistoia, che è il più grande d'Europa per le piante ad alto fusto. E cosa è successo a Pistoia, che c'è stata questa, così come in altra parte della Toscana, abbiamo visto quello che è successo a Forte dei Marmi, abbiamo visto quello che è successo a Castagneto Carducci, c'è stato un vento fortissimo. Qual è la condizione delle vostre aziende? Vannucci, buongiorno. Buongiorno, la situazione è abbastanza critica in questo momento, perché a parte che il vento sta continuando, anche se molto meno intenso, ma è certamente critica perché ci sono stati tantissimi danni alle nostre piante e soprattutto anche alle strutture, serre, capannoni, ombrari, che sono stati letteralmente distrutti. Naturalmente non avete ancora una conta dei danni precisa, Vannucci, immagino, no? No, anche perché è successo solo 24 ore fa circa, ma poi i danni enormi saranno alle nostre colture. Come ben lei ricordava, questo è il centro più importante d'Europa della produzione di piante, ci sono alberi anche che hanno 50-100 anni e in poche ore sono stati rovinati per sempre da questo evento eccezionale che non si era mai registrato, credo, negli ultimi 200 anni nel nostro territorio. Allora, lei è chiaro che non ci può dare in questo momento un quadro generale, però io so che la sua è l'azienda più grande in questo distretto, 500 ettari, 300 dipendenti. Ci può dare un quadro della sua azienda, in che condizione è, che così almeno abbiamo un'unità di misura, per così dire? Ma noi abbiamo molti dei nostri capannoni scoperchiati, abbiamo molte serre che sono state o distrutte o proprio anche queste scoperchiate, e abbiamo soprattutto, ripeto, il nostro patrimonio che sono le piante, tutte giacenti a terra in questo momento, proprio cadute, quelle in vaso, e quelle che invece si trovano nella terra sono state piegate, sono state rotte, radicate. Quanto di questo patrimonio, Vannucci, ci faccia capire, quanto di questo patrimonio è recuperabile, cioè piante che si possono rinvasare o ripiantare? Certo, no, noi auspichiamo di poterne recuperare una buona parte. È chiaro che ci precludiamo anche un po' il mercato, che fra l'altro sfortunatamente siamo anche proprio nel pieno del momento delle spedizioni e delle vendite, perché lo sapete, la primavera sta arrivando, abbiamo tantissimi clienti sul territorio che vengono da 60 paesi del mondo che vengono a acquistare le piante, e dimostriamo le piante purtroppo tutte rovinate. Questo è un grosso danno. Grazie a Vannino Vannucci per il suo racconto, magari torneremo a contattarla nelle prossime settimane, nei prossimi giorni per capire esattamente com'è la situazione. Mario Mazzocca, l'assessore regionale in Abruzzo, con delega a tantissime cose, tra cui la protezione civile, che è il motivo per il quale ci interessa adesso. Mazzocca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Abbiamo già parlato con Roberto Verrocchio, il sindaco di Pineto, quindi il quadro da là ce l'abbiamo. Vorrei capire come siete messi nel resto della regione, perché abbiamo sentito di autostrade chiuse, addirittura di gente intrappolata in autostrada. Siamo messi abbastanza male, è una situazione molto critica, permane questa criticità, se non altro più limitata rispetto a quella di ieri per quanto attiene le avversità atmosferiche, è riferita oggi per lo più la provincia dell'Aquila, stiamo ancora con tanti danni, ci sono ancora un centinaio di comuni ancora senza elettricità. 100 comuni senza elettricità, da quando? L'aggiornamento non ce l'ho, ma non lo siamo appena usciti da una riunione in regione, proprio come approfondimento della valutazione dei danni e della crisi in atto, ma sostanzialmente dalle prime ore del pomeriggio di ieri, inizialmente erano 90, poi erano lievitate a 115, adesso sembra che sia tornata in una parte del comune Teramano, ma dovremmo stare intorno ai centinaia di unità. Quindi da 24 ore. Un centinaio di comuni da 24 ore senza, sì, senza elettricità. Le previsioni che cosa vi dicono, Mazzocca? Le previsioni meteo vi tranquillizzano? Dovrebbero venirci incontro, il condizionale è sempre d'obbligo, ma nell'immediato dovrebbero venirci incontro. Speriamo che si attenui questo fortissimo vento, che ci saranno anche delle grosse difficoltà all'intero comparto abruzzese, la protezione civile, del volontariato a intervenire su taluni disagi e disservizi. E per quanto attiene invece le previsioni sulla energia elettrica, noi attenderemo un dettagliato report alle ore 17, il Presidente si è fatto già sentire alla sede romana con una certa energia e veemenza, e attenderemo questo. Era imbestialito, diciamo. Attenderemo questo report intorno alle 16, dopo un giro di perlustrazione che faranno con un volo aereo attraverso i loro elicotteri, e a quell'orario dovremo sapere quanti comuni è tornata la energia elettrica e quanti entro quando tornerà negli altri. Sì. La ringrazio, grazie a Mario Mazzocca, assessore abruzzese con delega tra l'altro alla protezione civile. Noi restiamo sulla cronaca con una storia di adescamenti e di ricatti. Una brutta, pessima storia che ha come protagonisti dei minori, ma questa volta non nel ruolo delle vittime, bensì degli estorsori. 12 persone, di cui 10 ragazzine minorenni, sono state arrestate dalla polizia di Forlì con l'accusa di aver adescato adulti tramite social network, minacciandoli poi di sporgere denuncia per pedofilia a meno che non consegnassero grosse quantità di denaro oppure regali. L'accusa è di tentata rapina ed estorsione. L'indagine è stata avviata dopo una segnalazione di prostituzione minorile a danno di 2 quattordicenni, le quali alla fine si è capito erano invece parte di una banda. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ve ne abbiamo già parlato nella prima parte, ci vogliamo tornare. L'ISIS con un bulldozer ha raso al suolo i resti dell'antica capitale assira, Nimrud. Siamo in linea con Franco D'Agostino, che è docente di assirologia all'Università di Roma La Sapienza ed è anche a capo della missione archeologica italo-irachena che si svolge ad Ur ed è ancora in corso, questo per dare l'idea che non tutto l'Iraq è occupato da ISIS e in alcuni luoghi ancora si riesce, per così dire, a lavorare. D'Agostino, buongiorno. Che cosa rappresenta da un punto di vista storico quello che ha fatto l'ISIS? L'UNESCO lo definisce un crimine di guerra. Sì, è un crimine straordinario tra il museo di Mosul e la distruzione delle Lamassu, cioè di questi grandi geni protettori costruiti dagli Assiri sia a Ninive che a Balawat, e poi con la distruzione di parte della città di Nimrud hanno compiuto qualcosa che forse non si era mai vista con tanta violenza, forse soltanto con i Buddha di Bamiyan siamo andati vicini a una violenza del genere. È qualcosa che non era neanche troppo prevedibile, diciamo, conoscendo il mondo islamico e il mondo iracheno degli ultimi anni. È una novità assolutamente infernale dell'ultimo anno. Che cosa rappresentano quelle rovine, quei resti archeologici dal punto di vista storico? Guardi, Nimrud è stata la seconda grande capitale degli Assiri, è stata come città fondata nel XIII secolo a.C. e poi è diventata capitale intorno all'VIII secolo, a metà del IX secolo a.C. Ed era una città che aveva uno dei palazzi più straordinari che fossero mai stati costruiti dagli Assiri, degli ortostati meravigliosi, ed è una città che fa parte proprio della storia dell'Iraq del nord, diciamo, è uno dei simboli insieme a Ninive della grande tradizione pre-islamica, ma avvertita dagli islamici come propria, dal migliore Islam come propria, che fa parte appunto dell'Iraq del nord. Grazie Franco D'Agostino, docente di assiriologia all'Università di Roma La Sapienza e a capo di questa missione italo-irachena archeologica, italo-irachena, che lo ricordiamo ancora una volta, ancora prosegue con una collaborazione, una buona collaborazione tra italiani ed iracheni. Grazie D'Agostino, buona giornata. Noi, come ogni venerdì, sentiamo che cosa ci propone oggi Daniele Biacchessi. Esce oggi per i tipi di Chiare Lettere I Re di Roma di Lirio Abbate, libro su mafia capitale. C'è Massimo Carminati, c'è Salvatore Buzzi, c'è Luca Odeven, ci sono tutti i personaggi che vi abbiamo raccontato in questi mesi. Ecco l'intervista di Daniele Biacchessi al collega Lirio Abbate. Chi erano i re di Roma? Erano dei personaggi che avevano un controllo della capitale diviso per zone, che fra questi Massimo Carminati, Michele Senese, Fasciani, Casamonica, personaggi che sono individuati da inchieste giudiziarie, per i quali, specialmente per Massimo Carminati, è scattata l'accusa di associazione mafiosa. Quali erano i loro legami accertati con la politica? Una politica di destra, sicuramente, dalle intercettazioni con gli uomini che erano accanto all'allora sindaco Alemanno, personaggi che arrivavano dall'estrema destra, dalla destra, poi anche con alcuni esponenti del Consiglio Comunale dell'epoca della sinistra, anche del PD, che sono stati indagati, sono sospesi e si sono dimessi dagli incarichi. Cosa c'è ancora da accertare nell'inchiesta mafia capitale? Cosa secondo te manca? Manca di capire veramente se questi politici sapevano chi avevano di fronte, se avevano un capo mafia, se avevano un capo di un'organizzazione criminale o se erano soltanto intimiditi dal potere di minaccia violento che queste persone incutono, oppure soltanto perché si sono piegati al dio denaro, per cui sono stati corrotti, si sono piegati soltanto per i guadagni che ne potevano derivare dalle offerte che davano gli uomini di Carminati. Gli apparati dello Stato hanno protetto Massimo Carminati? È uno degli obiettivi dell'inchiesta, capire come è rimasto così libero o cosa aveva da dare in cambio Massimo Carminati a personaggi deviati, ecco, non dico dello Stato, forse personaggi deviati dello Stato che negli ultimi 20 anni forse sono stati a fianco. Si parte dall'inchiesta anche da quella che è stato il furto al cavò della Banca di Roma nel Palazzo di Giustizia, dove sono state aperte soltanto alcune cassette di sicurezza dentro le quali i proprietari non hanno mai detto veramente cosa ci fossero, però erano i proprietari di quelle cassette, erano magistrati e avvocati. Anche tu eri stato nel mirino di mafia capitale? Questo l'ho scoperto soltanto adesso con l'inchiesta, con le intercettazioni, perché molti uomini di mafia capitale non si spiegavano come un giornalista si poteva interessare a loro e come poteva raccontare delle cose così interne che, come dice Carminati, non gli hanno detto sicuramente i poliziotti, e allora magari si possono essere stato nel loro mirino, ma però forse ci ho visto bene, ecco.